ce l'hai. Tutto a posto. Questo è. Sì, sì. Cavaga, va bene, allora. Speriamo bene, dai, speriamo che riprendi presto. E se no me la ne lasciamo prima. Sì, non hai visto se dice, non pensa a me. No, cazzo, non frutti intanto. Bobo, ciao. Non piace più l'altro, sei sempre cupo per me, non hai bassi alti, solo bassi. Cupo l'altro. Non penso l'hai toccato, l'ho regolato, sta andando bene. Se è stato toccato, ognuno di dopo 4.30 ti ascolto meglio. Questo è un MC60. Fuggi dalla radio, non faccio che si accamuffa, sempre bene, provando tutte e due, solo che avrei fatto vedere un come sta uscendo. Tu senti solo i tuoi 6 kHz, tu che stai uscendo, perché tu io sono così, oggi vuoi fare. Io sono così. Io sono tutti i canali devo dire uno. Ma uscire sui 6 kHz come si potrebbe ma a quest'ora mi stavo facendo ancora, mi sfugge il nome, vabbè, un po' di spugli stai tirando fuori, dai, però la parola giusta volevo dire, se adesso non mi fa. Ah, dico, non mangio spugli, non mangio tranquillo, che scontano Fabri, non ho mai fatto nessuna regolazione, non ho mai fatto nessuno, quindi... vita naturale durante, non ho mai seguito strumenti, non me ne ha fatto nulla, porto tutte le mie tonalità, è tutto, non c'è nessuno da fare anni, ti riesco, tu mi chiedi, a Fabrizio va bene così, non ci sono problemi, c'è la notte, ciao. Te lo sto dicendo perché sto uscendo e c'è tutte armoniche, sino adesso sono armoniche dall'altra, oltre i tuoi 6.000 che dovresti avere all'interno, capito? Quindi non... ci sentiamo per telefono, qui curati, riposati, tutte cose, che tanto anche un farettino qua in stazione. Già, armoniche 27.075, fammi vedere la scala, aspetta, adesso devo guardare, è creata 50 kHz, mi hanno trovato per lì, hanno fuori, te l'ha capito, no, secondo come quando tu cosa fai, se ci su un cane la punta massima lì, dove te devi fare la campana, quando inizi a parlare la tua campana, se c'è lì è circa 24 gli altricenti, stai tirando fuori una marea di armoniche, di spurie, quindi è come che stai... Io come che l'hai regolato tu, io non l'ho mai toccato, se tu hai questione di radio si può mettere in taratura. È una questione non di taratura, è una questione di microfono, di non fai tutto quello lì, sono convinto che c'è la gente che inizia a girare e ti sente sui canali, capito? La spinta microfonica sicuramente non ti succede questa. Non mi hai detto niente, c'è la spinta microfonica, no? Tu lo sai benissimo che il 430. Quello mi 60, come lo sguardo, vabbè, io ho sempre dove stanno gli altri, però non so, vabbè. Andando meno pianta a mangiare, e che puoi sbatterare ormai, si sta sempre tutti su un canale, a quel lato lì non ce ne frega più, ci sentiamo magari. A me non mi sbatte, non pensavo fosse pure la radio, ma se la radio è assolutamente, già ci aggiorniamo al telefono, vai. Devo dire anche una cosettina, ciao Fabio. Non mi lascio sorridere, non mi chiamo Marco. E beh, problemi ti sta dando questa storia. Già, sì. Quindi, lasciamo perdere. A volte vi ascolto, comunque, non si fa questo, o se le discarti agli altri. Non è come ha detto qualcuno. Vabbè, ma sono sicuro che è stato fatto per me. questo perché devi essere contento che ci siamo preoccupati per te. Come? Mi sono mangiato un bel risotto con i gamberi, un po' di cini fritti. Io sono andato adesso, ho fatto un panato, ho fatto un fritto e un insalata. No, va bene, va bene. Andiamo i gamberetti. È un risotto veramente buono, piccante al punto giusto. Poi a me la roba di mare è assimiliare, mi piace di trucco. È positivo, positivo. Tu sai che ci andiamo sabato notte noi a fare una pescata. Già, lì al porto di Alghero stiamo prendendo un po' di roba. Un bel, io c'ho un collega di Alghero. Sera sono tornato lì un paio d'ore e ci sono un bel giurattello galleggiante. Chiamate, non si vede così. Niente, ti volevo salutare, va. Perché oggi non ti ho chiamato, ho detto se dopo ce l'ho al radio, se è per radio buono, se no lo chiamo. E poi com'è? Sempre uguale, non c'è problema. Oramai sono diventato un pirata, una volta al mese. Poi il 6 maggio devo fare le coppie e poi vediamo. Se vado fuori, se non lo so, vediamo. E dice che fuori, guarda che qua sono bravi, claro, non è che sono meglio fuori, Qua ci abbiamo una buona politica come reparto ottico là, diciamo così. Vabbè, una cosa, colora te lo di nero. La gazzetta bianca, colora te la di nero. Bianca, ti va bene niente. No, non mi ho gatto. Cosa serve la gatta? Non ci vedo cosa serve. Fare che cosa? Serve un cazzo. Vabbè, lasciamo aspettare. Con questo controllo a dirmi quello che devo fare qui. Adesso aspetto le colore e poi vediamo cosa c'è a fare. Magari ci vuole un po' di tempo ma si riprende, dai. Non è detto che rimani così, ma auguriamoci che riprenda tutta la vista a tutta l'occhio. Sì, bisogna essere anche un po' positivi qua. Sono abbastanza positivo, ma i risultati sono quelli. Non mi interessa, tanto sono vivo, va bene lo stesso. Ok, questa luce non la sentiamo anche la cosa, non sono niente piatto. Non è capito, vabbè. Sì, guarda, te lo ricordo, me la dici, no, non c'è un problema. Ma oggi non ho fatto un video, roba così, bravo. Oppure momentaneamente si è a posto, è già tutto fatto, quello che devo fare. Sto a posto, sto a posto. Tutti i risultati sono abbastanza duri. E dici di questo, elettrocefalogramma, elettrocardiogramma, tutto a posto. È uno sforzo mentale. Peggiorato la persona. Già si recupera piano piano, claro, pazienza ci vuole, giustamente tu abituato a un ritmo di vita diverso, adesso è totalmente diversa la cosa, quindi tranquillo, piano piano, vedrai che si rimetterà tutto a posto. Se non al 100%, al 60%, però in quel caso si va vedendo, va bui. Quando uno lavora, se invece fai fare un caffè come fanno gli altri, e ti preoccupi solo di quello che devi fare a casa e non di quello che si fa al lavoro, se mi sarebbe successo. Vabbè, c'è poco da incriminare, è successo e basta. Va bene così, comunque. I risultati sono qui. No, la pratica è già, Sassari è già chiusa, no? Devo solo fare questo calcolo e insieme a Cebasta. Ma giusto per capire una cosetta, che sono in cerchio. Ci mette a fare. Ma c'è. Si possono al giorno d'oggi siamo molto all'avanguardia, capito? Non sarà né primo né l'ultimo, attenzione, detto non in senso buono, già si rimette a posto, vedrai che piano piano si rimetterà tutto a posto. Adesso giustamente in lì non è che voi avete tutto quello che vorreste, è tutto lì. E vabbè. Penso la salute qua, tutti dicono il lavoro viene dopo. Prima penso la salute, poi le cose già si aggiungono, non ti preoccupare. Avanti già. Certo che non si può essere di buon umore, ma quando succedono queste cose uno non se le aspetta. Il ricopo ti scende il cielo in testa. Cosa vuoi fare? Interessante che piano piano si riprenda, magari anche lo stress che lo fa, capito? Io l'altro giorno ho capito che era una parisi, proprio ho detto che poteva essere il freddo, invece è una trombosi, quindi non è questione di freddo, la trombosi è un trombo, è una bolla d'aria. Così hanno detto praticamente. Hai fatto uno sforzo, evidentemente, non so, comunque, è andato e basta, finito, non è che ci siano molti discorsi a fare, vedo di reagire più avanti, adesso non so manco a che parte girarmi. Si deve salire in cielo, mamma diceva così, non capisco da che Dio non voglia, era l'idea che deve salire in cielo, ma le macchine ci sono. Vuol dire che doveva finire, claro, adesso ti stai abbattendo un po' troppo, mi sembra, vuol dire che doveva succedere così, ovviamente, travaglio, stress, non era roba di stress né di nulla, vuol dire che era una cosa, un circolo già da un po' e una rifatta, tutto lì, uno non è che si deve abbattere qua, purtroppo siamo in passaggio, ha capito? Vabbè, sono un passaggio io in questo momento, evidentemente, è così, vabbè, comunque, l'importante siamo qua, poi. Non so qui il problema, poi ci devo anche farmi la barba oggi. Ma è dovuto fare un po' di invalidi, grazie. Vabbè. Ma ti ripeto, guarda che è una cosa buona che ci apre la bocca, quindi tanto tutto. Amore si può vivere, un occhio si può vivere, senza un braccio si può vivere, senza una gamba si può vivere, quindi cioè momentaneamente vivitela così, cioè non prenderla subito a male. Cioè, cioè, certo, un po' positivo, va. Cioè, in due giorni tu non puoi pretendere, dopo quello che ho avuto, di essere di nuovo al 100%. Il tempo al tempo, no? C'era un ragazzo che praticamente risiede a Rottella, ma per anni io l'ho sempre conosciuto, risiede a Rottella. Un giorno lo vedo camminando, cazzo, proprio come mi pare un raio. Ha detto, ma sono buio, acco, che cosa? Cazzo, si è fatto operare e ha riacquistato la motorietà. Si vedrà, però ho detto, lo aspettavo sì, maggio, adesso lo stesso, a riposo, e basta, riposare, poi si vedrà, quello che non so da fuori, perché si sperava il telefono, forse non sapevo manco che cazzo era, non riuscivo manco a vedere i numeri. Ma con quello che vedi, vedi bene o no? No, l'altro sì, vero, ma non mi aiuta tantissimo, capito? Perché da lontano sì, ma da vicino no, avevo 8 decimi, per quello che mi farà del raio avevo 12 decimi. No, ma ci sanno che da vicino a una certa età non si vede bene, l'abbiamo sempre lamentato tutti e due, anche quando stavamo guardando gli apparecchi e cose, ci siamo messi gli occhiali tutti e due perché non vedevamo. Dopo 40 anni da vicino si vede, non si vede bene. Vabbè, però non so. Spero questa cosa protettermi, adesso non posso fare niente. Però solo aspettare che questa cosa accada un po' e poi dovranno ricontrollare bene la retina e tutto il baravano. Nel momento che ho detto non ci vedo niente, vero. Se chiudo il destro sopraluccio, vabbè, allora già comprava una fascia birata sulle ticche, e tu non ci vedi tutto a posto. Tutto a posto, va, tutto a posto. E tu allora sai di cosa vestire tu a cosa, Carlo Rallo, va, che buono capitavo uscire giù a tutti. Guarda, io qua c'è un vicino di Barra Agricola, ho fatto capire un allevatore, sta varando il terreno, gli è entrata una pietra nell'aratro, prende la matetta, lo scalpello, va a togliere questo cazzo di pietra da dentro l'aratro, clà, sbaglia il colpo della matetta, sai lo scalpello che si forma con la testa strana, con tutte le ecco. Cazzo, si stacca un pezzettino di questo scalpello che lo va a finire infilato dentro al centro della pupilla. Perso l'occhio completamente, mi si è sgonfiato completamente, operato 250 volte, torna a mettere noi, tranquillo, guida la macchina, cioè per farti capire, no? Cioè quell'occhio è proprio cieco completamente. Eppure guida la macchina, vabbè, sta sempre un occhiale da sole, perché da vederlo non è che sia proprio bellissimo, però guida, ara, munge, fa tutto quanto, capito? Per farti capire. E io tutto a posto, niente, ieri ho acceso un pochettino la radio, ha fatto, era un paio di giorni che non trasmettevo, e quindi ha fatto due secondi quel problemino, e poi adesso sembra tutto a posto, va? Si spenta tanto tempo non vede fa, va bene, so di dire, so di dire, va bene, so di dire, non so che dire, va bene, va bene, va bene. tutto, confetto, sta a posto. Però quello quei picchi che salivano come dovevano salire, capito? Perché sabato abbiamo provato con lo strumento di Gigi, è quello che segna, diciamo, l'ago dello Smith, che c'è qua, segnava l'arrometro, perfetto, e quello che va qua da là, quindi era uguale uguale, e non volevo questo Smith che saliva come doveva salire, sono un po' preoccupato, capito? Non era quell'effetto lì. Allora l'ho fatto per un paio di volte, cioè, l'ho fatto, invece poi l'ho lanciato subito, però i picchi non salivano come dovevano salire, capito? Infatti mi ho ricontrollato tutto l'impianto, era perfetto, ho fatto attaccare il tetto, non sa mai che c'era qualche aspetto della massa, invece era tutto ordine. E in fase contatti siamo serrati a noi, anche il mio mal tutto ripulito, tutto le spinette pulito con la trilina, tutto. Adesso non sta più facendo, prima c'erano i decimali che ballavano, un po' accendevano, un po' non accendevano, tutto un casino, vabbè. Allora vivi che saranno dura anche radio dura, poi quando non durano i bici a via il culo, cioè vi va avanti gente. Ma ha rilanciato Claudio, invece non hai sentito. Già, dove stai andando adesso? 908? La decisa scanta. Ah, perché mi hanno detto che lasciarmi da un questo. Addirittura. Vabbè, ognuno c'è i suoi gusti, ma c'è un'idea, lo dico. Io ti sento sempre come prima, mancanza di alti, tutto bassi, comunque se piace a te, va bene lo stesso, non è il momento di stare via, per lo meno da parte mia, se piace a te già usalo come piace a te, fregatene quello che dicono gli altri, quello che dico. Io ti sentivo molto più forte con 908. Tu ce l'hai toccato, non lo so, ti sento poco fa, non era bella la modulazione, non era come quella che avevi regolato. Ma infatti io sto dicendo per questo motivo, ecco perché ti volevo dire la stessa cosa che stai dicendo Claudio adesso, infatti certo non la stavi usando. L'ho toccata ma poi mi sa questo com'era, ho controllato com'era e rimesso di nuovo a capo. Comunque, 908, poco fa ti sentivo più cupo, come ha detto Fabrizio. Evidentemente c'è qualcosa che lo regola bene, che è sfuggita, non so, forse era il tasto della tonalità, non è in alto ma in basso, non so, comunque c'è qualcosa che è sfuggita per fare modulazione, non era quella che ti avevo sentito io ultimamente. Va bene, ok, comunque ti ripeto, se piace a te fai quello che vuoi, quello che hai, quello che ritieni tu opportuno fare. Io buoni di ghiaggio armoniche, controarmoniche, questa è la mia modulazione, io non lo tocco, non abbasso, non sollevo, come piace così e così la uso. Brava. Ma tu a volte questo qui lo colleghi al 300? Può essere? Questo non ho capito. No, a Gianni stavo chiedendo, se l'ha mai collegato al 300? No, mi ha attivo. No? Non ci ha provato? Al 1300, ma al neanche. Sì, registrato un attimo. Il B300 è lineare, no? No, non ne voglio il B300. Avanti, Brecca. Ciao a tutti, buonasera, ben ascoltati. Ciao, lo sento io. Già. Sento più, ma. Ok. Tu non c'è il B300, cosa c'è? Il 550, cosa c'è? No, ma io ho avuto il lineare così grosso. C'è il 747 buco. Non ha avuto, se l'avevi avuto il B300, mi pare di sì. No, c'è il 747 sempre. Mi è sembrato di aver capito una volta c'era il B300. magari sto facendo, ma avanti Elio, mi ascolti? Che abbia fatto? Allora la basso.